Letture di Radio 24. Rinnovamento e antichità. Il filosofo e scrittore italiano Franco Bolelli riassume così la differenza tra americani ed europei sul modo di concepire la città. Se in America si privilegia l'innovazione, in Europa si valorizza il patrimonio storico. Due visioni contrastanti che possono però rappresentare la combinazione ideale per la città del futuro. Mi dispiace per i fan dell'Apocalisse, ma a meno che da qui a un anno il calendario Maya si riveli quel minimo attendibile, per vedere le grandi città cadute in rovina, attraversate da pochi aggressivi sopravvissuti, ricoperte di ruggine e sabbia e vegetazione selvaggia, dovranno continuare a rivolgersi alla letteratura e al cinema. Tanto più se guardiamo all'America, dove sembra quasi che per i palazzi valga lo stesso principio ormai in vigore per l'elettronica o per gli elettrodomestici. Costa meno il nuovo che l'usato. Conviene di più demolire e ricostruire che non aggiustare. Soprattutto quando a una costruzione, un mall, uno spazio per concerti o meeting o manifestazioni sportive, si richiedono funzioni sempre più avanzate e molteplici. Se poi ci mettiamo che là, dove l'antichità non esiste, c'è anche una spiccata propensione a non permettere che nulla o quasi di quanto c'è oggi diventi antico, ecco perché neanche un certo declino economico può frenare più di quel tanto quello slancio inventivo e reinventivo che interpreta una città come un vero e proprio organismo vivente. Da noi, dove al contrario domina una vocazione a conservare non soltanto il patrimonio storico, ma anche le muffe, le rovine ci sono e come, solo che sono un'attrazione, una specie di parco a tema della storia più o meno antica, una Disneyland di imperatori romani, papi, cavalieri e zar. Non sarebbe un problema, se non fosse che in tanta parte del pensiero europeo regna ancora un sospetto per le grandi città, di cui si tende a vedere il lato caotico e alienante, invece che la possibilità sempre più abbondante di entrare in condivisione con persone, idee, esperienze che in luoghi più piccoli non incontreremmo neanche con una ventina di reincarnazioni. Chiaro che è quando c'è spazio per entrambe le tendenze che una città e una cultura esprimono davvero la propria pienezza. 70% di naturale spinta al mutamento e 30% di valorizzazione del patrimonio storico. Non vi sembra un'eccellente attitudine? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Bolelli, Attenti alla muffa, dal numero 102, dicembre-gennaio 2012, della rivista Urban Magazine. Letture di Radio 24. Per lanciare un messaggio di speranza in questo Natale di sacrifici, il regista Ermanno Olmi sente il bisogno di scrivere di nuovo, dopo tanti anni, una letterina a Gesù Bambino. Buon Natale, tanti auguri, felice anno nuovo. Cos'altro scrivere? In questa vigilia di Natale c'è in giro una gran brutta aria che neanche i cartoncini decorati degli auguri riescono a scongiurare. Nessuno può aiutarti a venirne fuori se non da noi stessi, tutti insieme, con le nostre forze, ma anche confidando nell'aiuto dei sogni e delle belle favole. Come quella di Gesù Bambino, a cui da piccolo anch'io scrivevo la mia letterina per confidargli i miei desideri. Sono passati più di 65 anni, una vita, e adesso che sono vecchio e le energie affievoliscono, ecco che torno ad avere ancora bisogno di sogni e belle favole. E allora, sommessamente, ma con un nuovo slancio, voglio scrivere a Gesù Bambino che non l'ho dimenticato. Certo, un po' trascurato, questo sì. Tuttavia, lui sa bene come vanno queste cose. Si comincia che quasi non se ne accorge, e poi ci facciamo prendere dentro dai cambiamenti del mondo. E un po' alla volta si finisce col cambiare anche noi. E così è stato. Appena siamo diventati ricchi, abbiamo cominciato a praticare i modi e le mode dell'agiatezza, che sono cose, queste, che si imparano subito e senza bisogno che qualcuno ci spieghi che coi soldi è comunque un gran bel vivere. E tu invece, caro Gesù Bambino, che sei venuto al mondo in una stalla come l'ultimo dei poverelli, Francamente non eri intonato a comparire in mezzo a quel lusso sfavillante delle nostre vetrine, sempre traboccanti d'ogni ben di Dio. Molto meglio Babbo Natale, ben più rappresentativo del nostro improvviso benessere, con quel suo sgargiante costume rosso Coca-Cola, che dispensa doni favolosi come mai s'erano visti prima. Anche questo è stato un sogno, e noi dentro quel sogno. Ma oggi una nuova realtà ci sorprende. Dopo tanti anni di spensieratezza, quasi da un giorno all'altro, ci dicono che non siamo più ricchi e che in realtà non lo siamo stati mai per davvero. O se anche lo siamo stati per un po', non poteva durare per sempre. A ripensarci, adesso sembra quasi che sia stata tutta una messa in scena e anche Babbo Natale, ormai un attore secondario, e si è ridotto ad arrampicarsi lungo le facciate delle case, tanto da somigliare più a un ladro che a un fantoccione che porta i regali. Triste il Natale del 2011. Natale di sacrifici. Ma non bisogna perdersi d'animo. Intanto con mia moglie Loredana ci prepariamo ad accogliere i nostri 3 figli, che sono ormai degli adulti e vivono la loro vita altrove. Ma tornano sempre per il giorno di Natale. Non hanno mai mancato. E come sempre ci ritroviamo tutti insieme intorno alla tavola imbandita. Ciascuno al proprio posto, lo stesso che hanno sempre occupato fin quando erano piccoli. E così, anche solo per un giorno, torniamo ad essere la nostra famiglia. E ogni anno che passa, questo sentimento, per me e Loredana, ci diventa sempre più caro. E credo anche per loro. Loredana ha cominciato per tempo a ornare la casa di luminarie, a incartare e infiocchettare i regali e a preparare il patè di fegatini, che piace tanto ai bambini. Bambini, per noi, nel giorno di Natale, sono sempre i nostri bambini. E se anche la vedo un po' affaticata, so che è felice. E anch'io lo sono. Eppure non dovrei, a causa di questi nostri giorni così carichi di incertezze per tutti, con tanta sofferenza nel mondo e disperazione, conflitti, odio e morte. Caro Gesù bambino, è forse per questo che dopo tanti anni ho sentito ancora il bisogno di scriverti questa mia letterina. Quante cose vorrei chiederti in regalo. Di quanto aiuto sentiamo ancora il bisogno di ricevere da te e che tu solo puoi regalarci. Lo so bene che ascolti più volentieri i bambini, perché hanno il cuore puro degli innocenti. Ma se vorrai ascoltare anche noi, che da troppo tempo abbiamo lasciato che il nostro cuore si chiudesse all'amore degli altri, lasciaci almeno la speranza di poterci mettere alla prova, per diventare uomini di buona volontà e pace. Per questo ho deciso che da quest'anno riprenderò a fare il presepe ogni Natale. Loredana tirerà fuori dal ripostiglio lo scatolone con le statuine che tanto tempo fa avevamo modellato nella creta insieme ai bambini. E quest'anno, inaspettatamente, se lo troveranno lì, sotto gli occhi. E io, da poco distante, li spierò mentre loro, senza darlo a vedere, ne sono sicuro, tratterranno un brivido di commozione. Poi, prima che faccia buio, quando i figli se ne saranno già andati, Loredana e io saremo nuovamente soli. Adesso lei comincia a sentire la stanchezza e si stende sul divano a vedere un po' di televisione. Ma so bene che più della stanchezza deve scacciare la malinconia. E io, per lasciarla sola, rimango in cucina a dare un'occhiata ai giornali, sempre più o meno con gli stessi titoli di ieri e l'altro ieri, di domani e postdomani. Il mondo è sempre più a rischio di un inceppo totale e non si fa che ripetere l'inutile ammonimento: promuovere sviluppo, rilanciare la crescita, produrre nuova ricchezza. Caro bambinello Gesù, lo vedi? Tu li conosci bene, gli uomini. Non impareranno mai. Siamo dentro a una situazione talmente disastrosa che chissà come andrà a finire. E nonostante l'evidenza si pensa ancora di risolvere i problemi con gli stessi criteri, ripetendo i medesimi errori. Non vogliono capire che la sola salvezza è nella povertà, come tu ci hai mostrato. Povertà come virtù, che non è la miseria, bensì la liberazione del superfluo, una ritrovata misura del necessario. E se ricominciassimo di nuovo dal gesto che smuove la zolla? Lascio la lettura del giornale e mi avvicino al presepio. Guardo il bambinello. E gli parlo. Quando il mondo era in attesa della tua venuta, l'annuncio proclamava il tuo arrivo alla testa di schiere di angeli come un esercito celeste. Sei arrivato fra noi in silenzio, in disparte, senza gli onori dei potenti. Ti sei mostrato agli umili e ci hai narrato la più bella delle favole. La favola dove l'amore è la realtà più vera e di tutti, con giustizia. Avete ascoltato la lettura del brano di Ermanno Olmi, Letterina a Gesù Bambino, scritto in esclusiva per il settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. La crisi spinge alcune categorie di persone, e fra queste ci sono soprattutto gli anziani, a ridurre le spese per l'alimentazione. Il rischio, sostiene il nutrizionista Giorgio Calabrese, è quello di eliminare dalla dieta cibi che però sono fondamentali per la salute. Gli anziani rischiano di essere le vere vittime di questa crisi economica. Infatti, i più indigenti della terza e quarta età pare abbiano trovato come soluzione ai loro problemi di soldi non comprare più alcuni tipi di alimenti, che invece sono fondamentali per la salute. Involontariamente i nostri anziani e tutti quelli che attraversano un momento di difficoltà hanno inventato un nuovo tipo di dieta, la dieta del frigo vuoto. In Italia pare che abbia fatto molti proseliti, che rinunciano soprattutto agli alimenti più nutrienti. Le calorie che ogni giorno vengono a mancare alla dieta a causa delle difficoltà economiche sono circa 400, e se si considera che un chilo di grasso corporeo è formato da circa 7.000 kilocalorie, si può dedurre che ogni mese sparisce almeno un chilo di peso corporeo. Il problema colpisce 1 milione di anziani italiani che si nutre poco e male perché non ha i soldi per comprare il cibo, soprattutto quello ricco di buoni nutrienti. Chi lo afferma? L'ultimo congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, a Firenze, grazie a un'indagine condotta dall'Istituto Nazionale per la Ricerca e Cura dell'Anziano. Vi si legge che il 10% degli anziani, cioè appunto oltre 1 milione di persone, non assume abbastanza calorie e proteine con l'alimentazione quotidiana. Da cosa si capisce? È facile. Basta aprire il frigorifero di un qualunque anziano per capire se la sua salute è a rischio. Le 400 calorie che mancano giornalmente agli anziani sono in gran parte derivanti dalla scarsezza di alimenti con proteine nobili, quelle contenute in pesce o carne, che non entrano nel carrello della spesa degli over 65 per carenza di soldi. Serve un'azione comune di tutte le organizzazioni sociali, istituzionali e anche alla grande distribuzione. Sarebbe auspicabile raggiungere un accordo per concedere, ad esempio, a chi ha più di 65 anni ed è pensionato al minimo, oppure a tutti gli indigenti comprovati, uno sconto particolare nell'acquisto di cibo di origine animale, tutti i tipi di carne, pesce, uova e latticini, e di origine vegetale, frutta e verdura di stagione, meglio se proveniente da colture a chilometro zero e a filiera corta, gravati da spese minori, come suggerisce la Coldiretti. Una soluzione di questo genere è importante perché i nostri anziani si stanno nutrendo quasi esclusivamente di carboidrati, come pane e pasta, o zuppe di latte, privandosi di tutti quei nutrienti nobili che permettono a un fisico in crisi di salute di difendersi dalle infezioni, specie quelle di questa stagione. Con la dieta del frigo vuoto non si creano le condizioni per godere una serena vecchiaia in salute. La malnutrizione fa aumentare del 25% il rischio di un ricovero in ospedale e, oltre a far salire la mortalità, fa aumentare in parallelo la spesa pubblica con ulteriori ricoveri e cure. Dal 10% di anziani che mangia poco e male per motivi economici si passa addirittura al 55% se si esaminano i ricoverati nelle case di riposo. Il ricovero, infatti, è un momento molto delicato. Per l'anziano che si alimenta con difficoltà, 1 su 3 è a rischio malnutrizione, per 1 su 5 la probabilità è molto elevata. È provato che una nutrizione carente incide in maniera molto negativa sullo stato di salute, aumentando la durata dei ricoveri con rischio di infezioni, piaghe da decubito, depressione, deterioramento cognitivo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giorgio Calabrese, La dieta del frigo vuoto, dalla Stampa del 21 dicembre.